Il sabato del villaggio. E c'è un ascoltatore che ci segnala via WhatsApp al 349-238-6666 un altro dei film molto belli. Non c'era il tempo di citare tutti i film interessanti sul calcio, questo era davvero bello, L'arbitro di Paolo Zucca con Stefano Accorsi, me lo ricordo in una bella mostra del cinema di Venezia. Grazie all'ascoltatore, non so il tuo nome perché non l'hai firmato, ma grazie per questa segnalazione molto preziosa. Adesso è il momento di cambiarci d'abito, è il momento di iniziare la nostra terza ora del sabato del villaggio, che è quella di RadioTube. RadioTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La terza ora di RadioTube, quella che mi piace di più, lo dico tutte le settimane, ma è vero. E soprattutto lo dici a tutti. Lo dico a tutti quelli che arrivano. Daniele, sei riuscito ad arrivare nonostante la Champions League? La Champions League, qua è tutto, hanno fatto anche le prove, qua è tutto sotto controllo in questa zona qui. Ma mi hanno detto che gli interisti tifano, non ho capito perché tifano gli interisti. Io tifo per l'Atletico Madrid, Rocco, che infatti è milanista, tifa per il Real Madrid. Tuo figlio, sì. Perché c'è Simeone, il ciolo, che diciamo cuore interista, quindi ho una leggera preferenza, però guarderò la partita, però nello stesso tempo non sono così ma è coinvolto. Meglio una partita in cui non sei coinvolto o una partita in cui sei coinvolto da guardare? Guarda, il tifoso guarda le altre partite un po' come la mucca guarda il treno, cioè con quell'espressione un po' annoiata ma un po' anche sorpresa, decide di tifare per una delle due così almeno un po' si diverte. Però il basket, per esempio, adesso che il calcio è declinato, potremmo fare il basket. Certo, non la politica, non si può dire nulla di politica. Infatti stavo guardando le scalette di Marta Cagnola quando c'è la par condicio, partono dagli anni 60 e terminano vagamente negli anni 80 per non correre rischi. Hai una paura del garante più dell'uomo nero. Ma dopo da bambina. No, perché poi diamo delle indicazioni di voto senza io non so neanche quando cosa devo tu eri piccola, secondo sì. me tuo papà ti diceva attenzione che arriva il garante. Della par condicio, non l'uomo nero. No. Per cui, cari radioascoltatori di Radio 24, questa trasmissione vi riporterà indietro negli andrà anni in onda proprio in onda. Cioè non sentirete nominare nessun uomo, neanche uomo donna politica, proprio nessun uomo o donna vivente oggi. Ma non metti è vero. Che sia candidato a Stresa, uno ma di questi che può. Abbiamo invitato, metti, può, e tu non lo sai. Ma no, che panico, e tu non lo si sai. Può. Pensa a quelli che fanno effetto notte, effetto giorno, in panico ma no, loro. Ma allora loro fanno col bilancino, no? Un po' uno, un po' l'altro, un po' uno, un po' l'altro. Christian, noi abbiamo un'ora Gondoni sola, cosa facciamo? Parliamo di tutti noi. No, infatti sarete teleradio trasportati negli anni 60. Non è vero, comunque parliamo potete di scriverci a @MartaCagnola, @DiBellasio, non scriveteci di politica, anche su Twitter, a par condicio, #. RadioTube, #. ISDV. No, allora Marta, iniziamo la puntata. Tu per chi voti? No, guarda, sai che tutti i candidati. Io questa settimana ho litigato. C'è il voto alle amministrative. Certo, di mercate si vota. Sì. Basta. Ci fermiamo. Sì, perché su Facebook io che non uso mai Facebook sto scrivendo a tutti, non mi sopporta più nessuno. Non puoi andare avanti. No, la mia par condicio che ho litigato con tutti. Sebastiano, stai tranquillo, Barisoni, tutto a posto. No, però si vota anche da me, quindi stiamo molto attenti. No, ma allora, anche perché ce n'è di cose di cui parlare. Allora, è finito Amici, è finito, no? Ha vinto un ragazzo che ha 52 di piedi. Io so solo questo. Anch'io non l'ho seguito molto Amici, perché? Perché è uscita The Voice, più The Voice? No, non ho seguito tanto i talent questo. No, allora questo però sarà un segno del fatto che i talent iniziano a non lo so. No, forse è un segno del fatto che inizio io a guardare troppa televisione. Può oppure essere... che non sei più in età da talent. C'è ma cosa mi dici mai? Ma come nel senso che sei troppo giovane, perché ormai i talent sono per un pubblico di cinquantenni. Ah, ecco, allora, però hanno questa litigato. Settimana devo dire che c'è stata una lite molto divertente, sì, ad molto. Amici, soprattutto per le sue conseguenze. Che sono state? Allora, facciamo un passo indietro. Sì. Virginia Raffaele, sì, sempre straordinaria, incredibile, sì, che se l'è presa ad Amici con Anna Oxa, sì, che c'ha il suo caratterino. E la Ox è un po' così, è un po', diciamo, difficilmente incasellabile. Ti sembra sì, una definizione? Mi piace. Difficilmente inquadrabile, a volte anche difficilmente controllabile. E anche a volte difficilmente comprensibile, ma questo è quello che ha detto Virginia Raffaele. Allora io ero il numero uno, cantavo, ballavo, ero la più brava di tutte. Ma sai qual è il mio unico grande rammarico? Ho sbagliato a darla via. No, nel senso che l'ho data a quello sbagliato, eh. Allora datela via, eh. No, come se non ci fossero domani. Non è vero, come se non fosse la vostra, però datela a quello giusto, perché se ripenso a Braccio di Ferro mi sale sul sistema nervoso, guarda. Non ascoltate questo consiglio. Questa imitazione di Jessica Rabbit di Virginia Raffaele non è piaciuta molto ad Anna Oxa. Io non l'avevo sentita, ma non ha tutti i torti Anna Oxa allora. Ma non lo so, no, perché tu stai con... No, io non l'avevo sentita. E avevo detto, Anna Oxa si è arrabbiata, ma non ci si arrabbia per la satira. Ma è satira tosta, è però troppo, non dici mica niente di strano, eh. Vabbè, cioè, sentiamo come... cose vere, purtroppo. Cioè? No, fermiamoci, non ho capito. Ma no, lei stigmatizza il fatto che spesso per far carriera bisogna essere generose, ma lo dice fingendo Ho capito, però è un gioco comico. Ma non lo so, vabbè. Quindi cosa è successo poi? No, che Anna Oxa sì. Anna Oxa non si è tanto divertita. No. Volevo dissociarmi perché ho avuto diversi contatti da mamme e ragazzini. Sulla questione della comica, che non ricordo mai il nome, si chiama Virginia Raffaele. Perfetto. E l'ultima performance fatta, essendo un segretario nazionale del SINC, mi occupo di spettacolo, cultura, eccetera, ho ricevuto queste richieste. Allora, Anna Oxa si è dissociata un po' come te. No! Devo dire che poi non se l'è presa per i riferimenti alla sua persona, ma se l'è presa per il messaggio che veniva dato. Allora, giusto? Sentiamo come ha risposto Virginia Raffaele. Sentiamo. Poi vediamo com'è finita. Volevo ringraziare tutti, anche Anna Oxa, che è una donna sincera, che non recita, perché non ha mai finto di divertirsi. C'è da dire. Allora, no, veramente grazie per non essere stata con noi in questa edizione. No, sto scherzando, che ti ha dato, sto scherzando. E allora sai com'è andata a finire? Anna Oxa ha scritto su Facebook il suo staff. Anna Oxa lascia l'Italia subito dopo Amici per motivi di sicurezza. Ad Amici i mandati che diffamano a mezzo web e che fanno parte dei soliti dove fanno figurare suicidi o fanno internare protetti da alcuni che occupano le istituzioni. Chiarissimo. Devo dire che finalmente... finalmente è chiarissimo. Scusami, tu ridi, però... cantautrici, difendi sempre, in questo caso qua sei proprio Non capisco. Ma come? Chiarissimo. Per me è chiarissimo. E comunque in conferenza stampa era stata abbastanza chiara. Posso fare una sintesi? Sì. Non ho capito nulla. Cioè di questa litigata non ho capito nulla, soltanto che Anna Oxa se l'è presa per un messaggio che Virginia Raffaele dava alle ragazze che secondo lei non veniva interpretato come satira, giusto? Sì. Non è così sbagliata. Allora anche tu lasci Radio Tube per motivi di sicurezza. A parte che non sono segretario del SINC. Sì, del sindaco, sì. Sì, quindi non ho incarichi, non è che magari non ho avuto le stesse versioni, non canto, quindi niente. Di cosa parliamo dopo? Allora, dopo parliamo di una trasmissione che... degli exit poll, gli ultimi, noi nel prossimo... state lì in ascolto, perché dopo una piccola pausa che dobbiamo dare al traffico daremo gli ultimi exit poll, e anche paese per paese, l'intenzione di voto nostra, partendo da Vimercate proprio, dove c'è una tensione per le elezioni enorme. Dopo la pausa per il traffico. Cuore e Denari presenta un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora, perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e Denari. di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Radio 24. YouTube. E ora una notizia che ci è giunta da poco: il noto scrittore, filosofo, opinionista Mario Bambea è in fin di vita. Operato d'urgenza, Bambea è ora in coma farmacologico. Le sue condizioni restano gravissime. È stato un incidente violentissimo. Bambea tornava da Torino, ospite di un convegno su Bobbio. Classe 1960 si impone precocemente in un mondo, quello della sinistra degli anni 90, in continua transizione e trasformazione. Premio Strega, tra l'altro lo ricorderete, per il romanzo La temperatura del bianco, da cui Walter Veltroni trasse un film. Incerte le cause dell'incidente, ma probabilmente si è trattato di un colpo di sonno. Sembra infatti che Bambea si sia addormentato al volante. Beh, fantastico, Mario Bambea ormai è il mio intellettuale di riferimento. Ormai, perché ormai? Già da prima? Già da prima, ma certo. Hai mandato l'audio perché così niente exit poll, eh? No, vabbè, niente, sei parliamo direttamente ma di Mario Bambea. Secondo te com'è questa miscela Bambea? È metà Sgarbi, metà Cacciari? Io ci vedo molto Sgarbi, sì, un po' di Cacciari, ma anche tanti intellettuali della sinistra di qualche anno fa, di quelli di quando andava di qualche moda. Qualche anno fa, ma guarda, sì, che sì. Ancora, ma non lo so. Diciamo, io dov'è penso Mario? Questo. Dov'è Mario? Sky Atlantic, la nuova serie, 4 puntate di Corrado Guzzanti. 4 puntate... Io mi sono innamorata e alla fine volevo disinstallare Twitter perché c'è sì, certo. L'ho segnata anch'io, guardala, era l'ultima. Quando come tu ce l'hai Twitter, oh, guarda le affinità elettive. Non dire elettive, mai. Non si può dire elettive perché siamo in par condicio. Elettive, niente. Tu ce l'hai Twitter, Mario, non installarlo mai. Volevo disinstallarlo alla fine della puntata di Dove Mario. Però siccome noi due siamo due entusiasti, abbiamo pensato di chiedere magari un parere forse un po' più critico, perché devo confessare. Lei è un'amica, dopo la puntata ci siamo scambiate qualche WhatsApp, perché noi facciamo la social TV su Twitter e la social TV privata su privata. WhatsApp. Dite le stesse cose o è diverso? Tra WhatsApp e Twitter? Culinare. Assolutamente no. Pensavo alle stesse cose tra noi. Figurati, no, vedi che anche tu hai una doppia vita esattamente come Mario Bambea. Anche tu sei di giorno democratica e di notte, e di notte magari un po' razzista. Anche tu chi lo sa, sorridi chi lo sa. Per il trio Scure magari. Sì, io volevo già lo spin-off del trio Scure. Sì, e però poi avrai letto sicuramente Marcuse quando stavi facendo la tesi. E la temperatura del bianco di Va bene, allora dovevamo chiedere un'opinione alla nostra critica televisiva di riferimento. E lo facciamo subito, ecco. Ce l'abbiamo al telefono, sai? Ciao Stefania Carini, ciao! Ciao, in pratica devo fare la criticona proprio, perché siccome voi siete gli entusiasti io farò la criticona. No, vabbè, ma non è detto, dicci cosa ti è piaciuto. E cosa meno. Devo dire che mi aspettavo qualcosina di più, però è la prima puntata, quindi aspettiamo fiduciosi. Di sicuro Guzzanti si conferma un grande comico, ma soprattutto, secondo me, la cosa più interessante è che lui ci fa ridere col suo personaggio più volgare. In realtà, quello che molti hanno sottolineato, cioè questa critica all'intellettuale di sinistra, all'intellettuale all'italiana, poi, se vogliamo dire, nasce già un po' vecchiotta, cioè è un po' che pigliamo in giro questo personaggio. Poi anche l'inizio della sitcom, che è stata un po' diluita, no? Con anche il passaggio di Santoro, Travaglio, insomma, se vuoi prendere in giro davvero quel mondo lì, forse poi non fai tutte queste comparsate degli amici che intorno a quel mondo ci hanno gravitato e come. Però la cosa più interessante invece in realtà è che noi, quando è che iniziamo a ridere con Dov'è Mario? Iniziamo a ridere davvero quando Mario fa vizio, cioè quando davvero Guzzanti fa il comico volgare. Recentemente ha rilasciato un'intervista molto bella a Serra sul Venerdì, in cui lui diceva questo, che in realtà la comicità è meccanica, cioè è logica, la battuta è logica. Se il pubblico ride, dice, vuol dire che gli hai dato gli elementi nell'ordine giusto. Quindi la satira è una truffa, dice. Il meccanismo, quando funziona bene, fa sembrare il risultato molto più alto di quello che in effetti è. Ecco, secondo me, dov'è Mario, alla fine vuole essere anche un'analisi sui generi comici, cioè noi siamo lì che vogliamo vedere il nostro Guzzanti, quello di Aniene, il genio. Poi, siccome lui è bravo, noi ridiamo alle battute di Bizio, che sono veramente di basso livello, ma siccome lui è, a dirle è Guzzanti, che è uno scienziato, ecco che ci fa scoprire che forse il contenuto che ogni tanto diamo a tanti intellettuali, ma anche tanti comici, è una truffa, perché è il meccanismo quello alla base di tutto, il timing, il meccanismo comico di cui Guzzanti rimane maestro. Allora ascoltiamocelo un pezzettino di questo Mario Bambea che diventa Bizio. Per un porcazzo, l'ultima volta dove lascio Verdi? Ci avete fatto caso? Come alla fine si affezionavamo alle cose più brutte della vita? Pure lei, signora, alla fine gli si affezionava a suo marito, vero? Dottore, è tardi, dottore. Deve prendere medicina e andare a letto. Oddio, raga, è una rumena, sto da tanti esordi. Dottore, andiamo molto tardi. Cosa sta rubando? Cosa sta rubando? Anima di trovare la porta portese. Beh, Dragomira, la badante, Gnegno. Che poi per me è il personaggio chiave. Io non ho ancora visto le altre, come nessuno. Beh, però Dragomira, secondo me, è il personaggio chiave. Devo dire che anche Saverio Raimondo, che come sai io adoro, sono pazza di Saverio Raimondo, e lo trovo uno dei comici migliori del secolo, che è appena cominciato, ma comunque il secolo. Vabbè, è più facile adesso. Però che qua che perde la sua identità, il suo nome, ed adesso ti devi chiamare Gnegno. Io no, devo dire sera. Che Stefani un po' mi ha convinto, perché l'aspetto che qualcosa di già visto c'è sicuramente, cioè Nanni Moretti per esempio già prendeva in giro alcune cose, però Stefani intanto lui c'ha quel po' di politically incorrect che si può permettere solo lui, che insomma non so se altri nelle stesse circostanze. E poi secondo me un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo è l'aspetto che lui in fondo vuole raccontare, che tutti noi siamo un po' Mario Bambea e come si chiama il comico, no? Tutti noi Inizio. Abbiamo al nostro interno un secondo noi un po' più concreto e magari anche scurrile, reale, che ride, insomma è... Sicuramente, siccome Bizio è in ognuno di noi, appunto noi ridiamo con Bizio, noi ridiamo con Guzzanti Bizio, e il pubblico che fa l'intellettuale comunque anche con Guzzanti, perché Guzzanti non è Zelig, non è quella TV lì, poi alla fine l'altra sera rideva quelle battute, certo, ma fragorosamente, perché... come dice Guzzanti, quella è la meccanica. Poi cioè, io ci aggiungo un certo contenuto, certo, forse alzo il livello, ma la meccanica della comicità è quella. Ecco, io vedo che forse, al di là di un attacco all'intellettuale, forse c'è anche un attacco ai comici che si vogliono intellettuali, ai comici che fanno gli editorialisti. Ecco, io non sono un esperto, ma tu invece sì, Stefania, ma questa forma, non so come chiamarla, pseudo-docu-fiction, pseudo... non so, è così, è stata tanto usata. A me sembra una cosa molto originale anche questa. In realtà siamo di fronte a una sitcom, l'introduzione con il finto giornale, il finto richiamo, è una cosa molto utilizzata in realtà dai comici americani. Se ci pensate, Ben Stiller, ma detto questo, Orson Welles, Quarto Potere, il finto telegiornale sulla morte di un magnate, inizia tutto da lì. Poi ovviamente qua abbiamo un inizio più completo con l'utilizzo di più materiali e di un di un'introduzione nella storia della TV attraverso la TV. Non è una cosa nuovissima in generale, è una cosa un po' fuori dalla norma in Italia, e soprattutto è una maniera molto veloce di raccontare. Ecco, mi sono stupita di questa maniera molto veloce di raccontare all'inizio, e poi una certa, come dire, lentezza complessiva della puntata. Devo dire però che il prosciutto di mio dolore, cioè la battuta di sì, Dragomira, è molto divertente, soprattutto perché anche lì lei dice le stesse cose tra gli intellettuali e viene presa in maniera seria, portata in un altro contesto, quello un enorme pezzo comico. Allora, io direi di salutare Stefania proprio con Dragomira. È il personaggio chiave, cioè. Grazie. Dai, allora, noi lanciamo una breve pausa. Salutiamo Stefania Carini, la ringraziamo per essere stata con noi. Grazie. Stefania, ciao, ti lasciamo ciao. Con Dragomira, lasciamo tutti con Dragomira, ci troviamo tra poco. Sai, Dragomira è una donna straordinaria, era una poetessa, è dovuta scappare dal regime di Ceausescu. Scendi quei gradini, angelo mio, metti a posto le mie speranze. Gocce di freddo di ieri mattina, di fiori soriti. Straordinaria. C'è gelotta il cazzo. Come, amore? No, è stata la badante di Paolo Mieli. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. YouTube. Eccoci dopo la pausa, sì. Mi è piaciuto molto parlare di Dove Mai. Guarda, perché è una delle cose più belle in TV. Moltissimo, però purtroppo, siccome stanno arrivando nemmeno più i sondaggi, ma direttamente le prime proiezioni delle amministrative, da Vimercate. No, ma solo Vimercate. Ma se parliamo solo di Vimercate, possiamo farlo. No, che dopo, ma sai che poi io stasera vado in giro per il paese. Abbiamo le proiezioni, i candidati si vota della mia fra città. 7 giorni, sì. Anzi 8 forse, domenica si vota. Però noi abbiamo già le proiezioni da Vimercate, che si sta già votando per posta. Sì, sai che in Austria, in Brianza, dell'Austria possiamo parlare? Sì, dell'Austria, ecco, si può parlare. I voti per posta sono stati decisivi. Però purtroppo l'amministrativa Vimercate, non no, so, non si sa ancora. Dai, basta con questa storia, la par condicio. E finalmente Vimercate avrà un nuovo sindaco. Basta con questo. Va bene, io non torno andiamo più a casa avanti. Stasera. Andiamo asilo avanti. A parliamo altro di comune. Una cosa di cui tu sei appassionatissima. Allora, quindi ti lascio da la cosa parola. Si capisce che arriva la bella stagione? Allora, cambiano i palinsesti delle trasmissioni, sì, televisive. E c'è il passaggio fondamentale per me. Quell'ora in cui inizi un po' meno ad aver caldo. Sì. Inizi, perché è una bellissima ora d'estate, favolosa. Quella, in certi posti la vuoi proprio vedere la televisione. Sì, perché io arrivo a casa, sì, più o meno a quell'ora lì, perché sì, io esco dalla radio attorno di solito alle 19:15, sì, più o meno il mio orario è quello. Arrivo a casa, sì, magari c'è un po' di traffico. Sì. Siamo interessatissimi. Ma magari ma scusa, no, cosa ne sai? Magari gli ascoltatori accendi vogliono la televisione, sapere. Accendo la televisione e fino a un certo momento dell'anno mi godo i miei pacchi e il mio conduttore preferito, che è Flavio Insinna. Poi, per mitigare il dolore dell'assenza dei pacchi, arriva l'estate con la mia altra trasmissione preferita alla stessa ora. La mostriamo? Dai, mostriamone un pezzettino. Vai. Di una novità di quest'anno. Ecco qua. Un protagonista della televisione che io ritengo superlativo, era una grande amica, era una donna meravigliosa e mi era tanto piaciuto questo personaggio che si era creato, Sandra Mondaini, con questo famoso personaggio di Sbirulino, un personaggio molto importante. Un protagonista della TV che ritengo superlativo è Carlo Verdone quando arriva dallo spazio. Beh, Maxi Giusti quando imita il sottoscritto, c'è un'apparizione che dovreste vedere, attenta a quei due, Cristiano Malgioglio vero e Maxi Giusti finto. Everybody, comincia su, bungete, bangete. Signore, signori. E quando parte questa sigla inizia la serata, comincia a farsi un pochino buio, si accende lo zampirone, queste cose. È estate quando arriva, teche teche sta per arrivare da lunedì su Rai 1. Già appunto. Da lunedì? Eh sì, siamo fantastico. Già pronti per teche teche te. Allora, estate. Abbiamo sentito le voci di Amanda Lear, Teo Teocoli, Cristiano Malgioglio che lanciano le loro proposte per i filmati da rivedere a teche teche te. Abbiamo detto una novità quest'anno perché anche il pubblico è stato chiamato a mandare i propri video. Tu per esempio? Fammici pensare, te lo dirò alla fine io del blocco. Io i tu promessi hai già pensato? Sposi del trio. Ah, fantastico, li so a memoria. Allora,

beh, siamo già qua che friggiamo pensando alla Champions League. Stiamo entrando in clima Champions, ma prima direi che possiamo passare ai commenti elettorali. No! Avendo dato gli exit poll, sì, le proiezioni, passiamo ai commenti degli elettorali. Sconfitti o dei vincitori. No, dai, scherzo. Entriamo in clima Champions perché? Perché ci ha segnalato Christian Goldoni che, sì, un altro Christian, sì, è diventato il protagonista social della settimana. Sì. Perché? E chi è questo Christian? Perché? Chi è questo Christian? Christian Vieri. Non è candidato, speriamo. No. Speriamo. Per tanti motivi lo speriamo. Perché? No, perché? Vabbè. Allora, non, sì, non è candidato, Bobone, ma è nostro militante per una causa nobilissima. Nobilissima. È assurdo che non ci sia, scrive su Instagram, un volo diretto Milano-Miami con Alitalia. Eh già. Ma vorremmo sapere chi ha deciso una cosa del genere. Vogliamo sapere una adesso campagna chi... no, per rimettere. Allora, mettiamo un bel Milano-Miami. Perché, perché io... è ovvio che chi è che non va io, in Miami, giornata magari. Guarda, fine settimana, non ci vado perché non c'è. Perché se no ci andresti, certo. Comunque, però ognuno ha le sue esigenze, voglio dire, ha fatto una richiesta, gli avranno risposto in qualche modo. Guarda, no? La compagnia di bandiera. No, vabbè, ovviamente Alitalia ha detto che dipende da tanti fattori, ad esempio da quanto, sì, dalla profittabilità del volo. Insomma, sono stati... Dove bisogna andare? Chi lo sa? Per andare a Miami, scriveteci ai nostri account, @Marta Cagnola, @DiBellasio, qual è la via più facile. Però diventa molto social e lui è bravo, no? Sì, sui devo social, dire che devo dire che ci sono dei commenti nel suo Instagram di tutti i tipi, sì, su questo. Però allora mi sono messa a guardare un po' l'Instagram di vediamo se si sente. Sentiamo. Aspetta. Allora, facciamo così, fai quello che faccio io di solito, cioè l'impreciso. E questo è uno. Poi c'è un altro, sì, quello dopo fa così. Come fa? Uguale. Sì. Questa è fanno ancora. Poi quello dopo fa. Il video per 30 secondi, però non andava. Non avevo pigiato il rosso. Non ha pigiato. Non ha pigiato il rosso e dopo indovina cosa si mettono a fare? Bobo gol. È avvincentissimo. Ognuno ha il suo stile su Instagram, ognuno sui tu, social, per esempio, in generale. Su Instagram cosa fai? Allora, io su Instagram faccio delle foto quando incontro dei personaggi, quando vado alle conferenze stampa, quando vado ai festival, una foto, eccetera. Oppure se sono in giro per turismo, anche foto turistiche. Quello anch'io, squarci di città. Scrivo molto, sono molto loquace su Instagram. Io sai cosa ho trovato di comodo da fare? Io faccio la foto di frasi che mi piacciono sui libri, così la mia pigrizia viene assecondata e non la devo digitare la citazione. Sai che vanno poi molto... un po' meno, allora faccio citazioni. Poi con quell'effetto che fai tutto che non si vede attorno e vedi solo la frase che vuoi sottolineare, funziona. Sì, non preferisco scrivere io. Sono loquace. Ma invece lo stile di Magalli sui social. Lo stile di Magalli. Magalli ogni tanto si incazza, diciamo. E si esterna. È giusto, perché doveva fare il Presidente della Repubblica, ma poi non l'ha fatto. Sì, e in un'intervista a TV Blog si è arrabbiato con Morandi e anche con Adriana Volpe, con tutte e due. Adriana Volpe tra l'altro è sua collega in trasmissione, sì, no? C'è addirittura un gruppo su Facebook che si chiama "Perché Magalli non guarda mai la Volpe quando parla" o qualcosa del genere. Non l'ammazzerei, per carità, ci lavoro, la sopporto, ma alcune sue prerogative non mi rendono contento. Dai, fate pacina. Sì, appunto, fate pacina. Potremmo chiamarli esempio, noi, vabbè. Quando invece ha attaccato Morandi, sì, insomma, Magalli dice: "Io non riesco a usare il web per pubblicare foto dove sbuccio i piselli". Lui, come altri, hanno una forte preoccupazione di apparire sul web. Morandi ha 2 milioni di follower, ma se esce con un disco nuovo quei seguaci non valgono 100 dischi in più. Qual è lo scopo di far la fatica di andare ogni giorno a fare una foto con i piedi nel ruscello? Ma perché bisogna fare solo cose con scopo? Quindi tu stai con Magalli o con Morandi? In questo caso decisamente con Gianni Morandi. Perché quelli che se la prendono con le persone che stanno sui social, loro ci stanno, voi non ci state, pace. Vabbè, allora, i risultati li abbiamo dati. Dai, abbiamo tempo per un ultimo argomento. C'è sta polemica politica ricordo, vuoi parlare di quella? Ma sì, dai, parliamo di quella. Non allora, l'ho capita. Te la spiego io. Ecco. Allora, responsabile di casting, una signora, che deve fare il casting, cioè scegliere gli attori per una fiction che andrà in onda sulla Rai, diretta da Francesca Archibugi. Ah, però. Spesso... I giornalisti danno per scontato che i lettori sappiano tutto. A volte si pensa che siano i registi a scegliere tutti gli attori. In realtà no. Registi e produttori, spesso d'accordo, scelgono le parti principali, sì. Ma per il resto poi ci sono delle apposite agenzie di casting. Questa signora, che era stata appunto ingaggiata dalla produzione per fare il casting di questa fiction, cerca un nano o comunque un disabile che faccia tenerezza. E l'ha detto proprio così, papale. Sì. Ecco. Che non è proprio non è proprio una frase felicissima, diciamo. E com'è così. Uscita? Allora, la cosa è uscita perché il messaggio è stato postato su una bacheca di Facebook del casting. È apparso anche sul sito della Film Commission Torino Piemonte. Ovviamente Francesca Archibugi, la regista, ha detto: io non sapevo nulla, non sapeva nulla la produzione, perché era proprio, faceva parte del lavoro della direttrice casting. Comincia a girare questo annuncio così un po' sui generis, e il nostro Gianluca Nicoletti con il suo fantastico figlio Tommy decide di girare un video, lì dall'autostrada, lì dov'era, registrano un video lanciando un hashtag che fa nel giro di poche ore il giro della rete. Mostriamo il video alla radio? Certo. Mostriamolo. Siamo due poveri disabili, sì. Abbiamo saputo che c'è un casting in corso alla Rai per un film di Francesca Archibugi, che cercano dei disabili che ispirino tenerezza. Ecco, siamo noi, ispiriamo tenerezza. Guardate quanta tenerezza in questo ragazzo. Fa la faccia tenera, ispira tenerezza. Il nostro grido di apertura e di amicizia verso chi fa il casting per disabili che ispirano tenerezza è espresso in questo cartello, pensato e coniato da questo tenero disabile. Casting disabili, tenerezza, sto cazzo, dillo Tommy. Calcio. Bravo. Grande Tommy. È grande Gianluca Nicoletti. Però devo dire una cosa. Allora, sì. Chi frequenta un po' il cinema sa che soprattutto nel cinema romano i modi sono un po' spicci. E anche nella TV, ai noi, i modi sono un po' spicci. Alla radio invece. No, vabbè, ma non è che... Cioè, la TV... Per esempio, a me è tornata alla mente una scena di Boris, la serie televisiva che prendeva in giro i modi di fare della TV con estrema esattezza. Come? Allora riguardiamo un pezzettino di Boris, prima stagione, ecco qua. Beh, per me non è un problema, però uno dei tre drogati... Veloce però. È peruviano, va bene. Ancora il peruviano? Ma ce la pioppano sempre. Senti, chiama Alvaro, il numero sta là, e gli dici: oh, ma devi essere duro, eh. Gli dici che la smettesse di mandarci questo cazzo di peruviano, ci mandasse subito un drogato decente. Flora. Sì, la sto vedendo. No, lo vedo che c'ha il fisico, però è depilato. Lo so che i ciclisti si depilano, ma questo sembra gay. Ho capito che un ciclista può essere gay, ma qua siamo sugli occhi del cuore, Flora. Se vuoi capire, capisci. Dai. Era esattamente, cioè, gli Boris ha predetto cuore. Tutto, gli occhi del cuore. Evidentemente, così va. Sì, così va, sì. Almeno ogni tanto. Un po' bruschi e un po' spicci. Allora, la giunta di... è così composta. Allora, assessore ai trasporti, assessore XY. Dai che finirà questa par condicio. Guarda, io non ne posso finirà più, io vorrei parlare un po' di queste cose, perché poi sui social di quello si parla, E infatti sarebbe sarebbe una bellissima riflessione. Perché possiamo dire la nostra sui social e non possiamo dire niente alla radio? Come mi sei diventata seria sul dibattito cross mediale, sul fatto che alcuni divieti sono negli old media e non ci sono nei new media. Tanto è finito il tempo. Ecco. Quindi. E quindi vi lasciamo al Clima Champions. E sì, ringraziamo. Sì. Non ringraziamo. Oggi non ringraziamo. Ma oggi non ringraziamo. Non ringraziamo Paolo. Non ringraziamo Paolo Corleone in regia. Non ringraziamo Cristian Goldoni che veglia sulla trasmissione. Non ringraziamo neanche noi, gli ascoltatori. Perché io, diciamo, abbiamo lo stesso rapporto come Magalli e la Volpe. Uguale, non ci guardiamo. Io il Magalli e tu la Volpe. Oppure il contrario. Alla prossima settimana. Ciao, ciao a tutti.